Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Oggi con enorme piacere abbiamo portato Palla Spicchi a Torino e abbiamo portato qui, tra poco ve lo presento, insomma, il basket di Torino, non guardando al passato ma guardando al futuro. Intanto saluto Coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, saluti a tutti. Tra un po' torni qui a Torino a giocare? Ah? Tra un po' torni a Torino a giocare, magari l'anno prossimo. Ah, può darsi, eh? Mi farebbe piacere. Poi semifinale di 85-86 con Berloni Torino, sono stati Auxilium Torino per l'esattezza, sì. Sono state veramente battaglie. Sì, intanto ho portato qui, vi dicevo, il basket di Torino. Abbiamo anche un gran pubblico, valgono le telefonate come sempre, 800240024, numero verde, ma valgono anche gli interventi del pubblico, eh. Qui abbiamo un microfono che girerà, mi farebbe piacere. Intanto, il basket di Torino, penna storica del basket torinese, il mio amico Piero Guerini di Tutto Sport. Ciao Piero, grazie. Ciao a voi. E poi il futuro, dicevo, del basket di Torino, che si chiama MPS Basketball. Allora, vicino a me c'è Giulio Trovato, direttore generale del PMS. Ciao e buongiorno a tutti. E Paolo Terzolo, che è socio, ma futuro presidente, giusto? Sì, diciamo da oggi presidente. Ciao da a tutti. Oggi presidente, quindi meglio di così non si poteva fare. Abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare, perché ieri penultima giornata di Serie A e si sono scritti già dei verdetti. Ci eravamo lasciati una settimana fa con i sogni di Siena, i nostri pronostici che sono diventati la sera stessa carta straccia, caro coach Peterson. Ma io non so, non chiede a me i pronostici, ok? Non indovino neanche uno, quindi io sono il peggiore del mondo. Sei il peggiore del mondo. Senti, verdetti di ieri, Biella a proposito di basket piemontese che si salva, Brindisi condannata, Sassari che batte Siena ma ancora non basta per il secondo posto e, caro Cos Peterson, la lotta per il secondo posto che viene riaperta con la sconfitta di Cantù a Treviso e la vostra vittoria su Cremona, ma c'è la tegola Maciulis. Che succede? Well, innanzitutto io voglio aspettare prima di sputare una sentenza su Maciulis, l'entità della cosa, ma Cantù ha perso, ma io non conto su niente. Cantù è una grande squadra che saprà veramente reagire, che conosciamo loro sono veramente una squadra ben allenata da Trinchieri, molto compatta, non hanno paura di niente, quindi torna a casa. Certo, sarà un derby con Varese, non sarà facile, con le storie lì non lo metto in dubbio, però loro sono una buona squadra. Infatti, noi non possiamo pensare a quelle cose, noi dobbiamo pensare ad andare a Pesaro e fare la nostra partita. Piero, che succede secondo te a Milano in questa lotta per il secondo posto? Derby che, insomma, Coach Peterson guarderà con grande attenzione. Saranno gli ultimi 40 minuti di stagione regolare, ma ci sarà da seguire tutto quanto, compresa la partita da €500.000, ma poi ne parliamo. Sì, l'infortunio di Maciulis è certamente una tegola troppo importante per Milano, a prescindere dal risultato del derby di Lombardia tra Cantù e Varese. Credo che comunque Cantù e Milano arriveranno sino alla semifinale e che il fattore campo potrebbe non essere così importante. Tanto io continuo a pensare che quella semifinale, che comunque sarà fatale a prescindere dal fattore campo, tra Milano e Cantù, e lo dico a Coach Peterson, potrebbe essere, insomma, tutto sommato il vero grande evento di questi playoff. Non ti dico la vera finale sia al netto di Siena, però sarà il vero grande evento di questi playoff. Piuttosto, coach, oltre a questo aggiungo la sconfitta in Eurolega di Siena, la sconfitta che nulla conta in termini di classifica, però si tratta sempre di una sconfitta e Siena non è abituata a perdere, di ieri a Sassari. Potrebbe tutto questo aver aperto delle crepe nelle certezze di Siena, secondo te? O ci speri quantomeno? E noi abbiamo tutto il playoff davanti a noi, quarti finale con Varese, semifinale, e era sempre una cosa che pesava su di noi come Mancini, ok? No? Ma è inutile negarlo, ok? Quando è finito quell'anno lì e perso lo scudetto con Roma, abbiamo detto ok, anno prossimo possiamo pensare diversamente, ma è pesato. Però dopo la gente reagisce, ok? E sì, hanno avuto altre cose nel passato, sono stati eliminati, quindi hanno saputo reagire, quindi non sono preoccupato per Siena, assolutamente. Loro certamente sono delusi, perché anche le circostanze, diverse altre cose, ma una grande squadra, un grande allenatore, quindi non spreco energia a preoccuparmi di quello. Ok, senti Cos, prima di salutarti, visto che sono qui al Salone del Libro di Torino, nella, insomma, questo paradiso del libro, quando ne scrivi un altro? Perché è ora, eh? Diciamo dopo il campionato. No, ho veramente il tempo, okay? vorrei anche tanto, ma bisogna anche avere un po' di coscienza per queste cose qui. Sono veramente un capo tecnico per quanto riguarda il tempo materiale, inutile negarlo, ok? Quindi sì. Ma però certamente la farò, probabilmente su questa esperienza. Facciamo così, magari tra un anno c'è sto libro, veniamo qui a Torino e lo presentiamo insieme. Certamente. Va bene, grazie coach, un abbraccio. Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao Piero. Grazie a coach Dan Peterson. Torno ad invitarvi 800 24 00 24 per le telefonate in onda e vi risponderemo qui da Torino, oppure senza fare il numero, chi vorrà intervenire tra quelli che sono qui davanti a me potrà farlo. Messaggio SMS 349-238-6666. Adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, poi vorrei cominciare a parlare del basket torinese, del basket piemontese e di una ferita che, cari miei, rimane per me aperta e inspiegabile, cioè la rinuncia di Torino all'organizzazione delle Final Four di Eurolega, che per me personalmente, ma credo per la pallacanestro italiana, è una ferita che continua a sanguinare. Traffico, poi torniamo insieme. Palla spicchi. Allora, tra i messaggi ne ho già diversi, c'è questo: a Bologna si è rumoreggiato molto di un interesse di Sabatini per il basket torinese, cosa c'è di vero? E ne parleremo. Però adesso è il momento di coinvolgere i miei ospiti, ripeto, Piero Guerini, penna storica del nostro basket e del basket torinese in particolare con Tutto Sport, Giulio Trovato, direttore generale del PMS Basket, e il neopresidente Paolo Terzola, al primo giorno di presidenza, vede, l'abbiamo subito portata a palla spicchi. Festeggiate una bellissima trasmissione in un ambiente molto suggestivo. Vero? Vero. Perfetto. Allora, mi spiegate, cari signori, perché siamo dovuti andare a Barcellona per vedere le Final Four di Eurolega e abbiamo dovuto vedere il Palasport di Barcellona pieno, stracolmo all'inverosimile, in una festa totale del basket europeo? Perché l'elite della pallacanestro europea che doveva venire qui non è venuta? Piero? Si è trattato semplicemente di una questione politica, credo, ne resto convinto. Sicuramente la Final Four di Eurolega è un affare dal punto di vista del botteghino. Ovviamente non si possono prevedere prima le squadre che arrivano alla Final Four, però una greca, una spagnola, spesso il Maccabi, e questi portano pubblico. Quindi la questione del rischio d'impresa, che è stata portata avanti come principale causa della rinuncia su un accordo che, va bene ricordarlo, sì, bene ricordarlo, era già stato firmato, siglato con una presentazione che c'era già stata niente meno che al Teatro Regio. È stato un clamoroso autocanestro e sicuramente non si può pensare che sia stato sufficiente organizzare la Final Eight di Coppa Italia a, sì, Torino, piuttosto che le finali di Coppa Italia di Lega 2. Altra a Novara cosa, non sono un risarcimento sufficiente. Torino sarebbe stata ancora una volta la capitale di canestro, ha organizzato due volte la Final Eight di Eurocup ed era un passo, anzi erano due passi per avvicinarsi a questa Final Four, che tra l'altro è un'occasione unica, perché in futuro l'Eurolega richiede palazzetti ancora più grandi del pur bellissimo Isozaki del Palo Olimpico. Quindi, perso questo giro, dovremmo aspettare a lungo e sperare, sì, in qualche strano rivolgimento. Prossimo treno. Giulio, da addetto ai lavori, questa Final Eight che c'era era stata già inchiostrata e poi è stata persa. Ma sicuramente direi che gli aspetti positivi di avere una Final Eight a Torino e in Piemonte sarebbero tutto quello, cioè, sarebbe stato tutto quello che una manifestazione di questa entità avrebbe portato sulla città in termini di promozione dello sport, pallacanestro, in termini di basket visto per strada. Io sono stato a Barcellona e al di là di quello che sono state le partite giocate, quindi bellissime partite giocate all'interno del Palazzo San Jordi, che pur avendo una capienza maggiore del Palazzo Zacchi, come visibilità del campo, secondo me non è paragonabile al nostro impianto, in realtà gli aspetti positivi sono un po' tutto quello che erano i volumi di basket all'esterno dell'impianto, e quindi non so, i campi con ragazzi che giocavano sul campo appositamente tracciati, sì, sulla zona circostante al palazzo, piuttosto che le promozioni dell'evento sulla città di Barcellona. È chiaro che questo riporto da Torino secondo me sarebbe stato un evento promozionale senza pari. Senza pari per Torino e per il basket italiano. Allora, presidente, Torino dove va? Quest'anno campionato di A dilettanti, sappiamo siamo alla vigilia del terremoto, della grande riforma, ad uno, a due, a tre, ormai ho perso i conti e ho poca memoria e poca simpatia per le sigle. Una stagione in parte difficile la vostra, poi il vecchio generale Pippo Faina è arrivato qui, ha vinto 10 partite su 11, se non ricordo male. Corretto, corretto. Adesso una nuova presidenza. Insomma, che volete fare qui a Torino? Beh, vogliamo portare avanti un progetto basato su piccoli passi. D'altra parte la caratteristica del piemontese è quella di fare le cose in funzione delle proprie possibilità, e questa è una caratteristica che sicuramente tenterà di avere anche questa società. Siamo partiti con una fusione 2 anni fa di due società della periferia di Torino, della prima cintura di Torino. Oggi ci vogliamo identificare sempre di più con la città di Torino. Io ho un messaggio, sa? Sì, ci chiameremo Torino prima o poi. Ah, l'ha letto? No, è arrivato fino a leggerlo fino a qua. Senza occhiali non riesco a leggere, però è una domanda che ci fanno tutti i giorni, quindi ecco. non stento a credere che sia arrivato anche in radio. Sì, sicuramente ci chiameremo Torino. Non so quando, ma appena lo potremo fare vorremmo sempre di più identificarci con la capitale di questa regione. Intanto mi sembra che a livello di pubblico, a livello di interesse, insomma, i vostri numeri nel campionato appena finito per voi sono stati di assoluto livello, no? Sì, sì, sì, molto molto molto molto molto soddisfacenti. Poi andando in giro un po' per il centro nord dell'Italia, andando nei 15 palazzetti che ci hanno ospitato, ho notato con discreta soddisfazione che il nostro pubblico è il più numeroso. Ecco, in tanti vogliono venire a giocare qui. Io voglio sapere anche come vi rapportate con queste voci, con queste situazioni. Lo sappiamo, no? C'è Casale in lotta, a proposito di basket piemontese, Casale Monferrato in lotta per la promozione in A1, al piano superiore. C'è Biella che ieri ha conservato, caro Piero, questa Serie A, che è un patrimonio importante. E poi ci sono quelle due famose partite da mezzo milione di euro nell'ultima giornata, perché sappiamo Brindisi retrocessa, chi arriva penultimo può pagare questo mezzo milione di euro e quindi rimanere in Serie A. Bologna-Teramo e Montegranaro-Biella, da queste due partite valgono appunto mezzo milione di euro. Allora, chi viene a Torino, cosa immagini per l'anno prossimo qui a Torino? Chi giocherà al Palazzo Zacchi? Cosa succede? Dimmi la verità, non ci ascolta nessuno, dillo a me, dimmelo in un orecchio. Al Palazzo Zacchi non può giocare nessuno, perché sì, è un impianto troppo grande che ha dei programmi che non contemplano soltanto lo sport. Sì. Noi dobbiamo fare affidamento a Ruffini, allora, al vecchio Ruffini tornato. Noi appassionati di basket dobbiamo fare affidamento sulla PMS Torino, che è una società solida, che si è già strutturata come una società professionista, nonostante siano ancora nelle leghe dilettanti, che ha un progetto serio, che fa promozione sul territorio, perché sono partiti legando società di Torino, di zona limitrofe, Montalieri, San Mauro, sono legati a Venaria, lavorano benissimo con i giovani, lavorano benissimo sul reclutamento. E con la politica dei piccoli passi, ma bisognerebbe chiedere anche a loro, perché ci sono parecchie società di Lega 2 che non stanno molto bene, non si sentono molto bene, che potrebbero magari trattare una cessione di diritti. Io credo che loro potrebbero già farsi trovare pronti. E chiediamoglielo allora, a cominciare dal direttore generale. Giulio, comprate questi diritti o no? Allora, noi... Giusto per fare giri di parole, per andarci giù leggero. Non vi nascondo che l'interesse rispetto al mondo professionistico c'è. Abbiamo avuto modo di incontrare il commissario della Lega 2, Marco Buonamico, e in quell'occasione abbiamo manifestato la nostra intenzione che nei futuri programmi per noi rientra sicuramente il passaggio per la Lega 2. Siamo sicuramente pronti da oggi, però non abbiamo intenzione di andare a trattare individualmente dei diritti con squadre, se non con l'appoggio dell'attuale Lega 2. quindi sì, vedremo che cosa il futuro ci porterà a nostra disposizione, poi lo valuteremo sul momento. Presidente, è arrivato un regalo, deve farlo, no? Sì, mi ai sembra... tifosi, alla città, si dice sempre così. Beh, no? Adesso facciamo un passo indietro. È vero che sono arrivato oggi in questo incarico, ma mi sembra di essere stato uno dei promotori di questa iniziativa, di questa società, di questo movimento che vuol far ritornare a livelli medio-alti il basket a Torino. Il regalo alla città di Torino non lo devo fare io, lo dobbiamo fare tutti insieme, quindi applicandoci ognuno di noi per il suo ruolo, per le sue competenze, dando il massimo. Comprare un diritto e poi non sapere cosa farne mi sembra una cosa assurda. Costruire qualcosa per far sì che questo diritto ci dia soddisfazione sia in campo che fuori, beh, questo sicuramente è nei nostri piani, nelle nostre strategie, nel nostro modo di essere. Io intanto sto leggendo diversi messaggi, 349-238-6666, comprese delle accuse di maschilismo, perché non parliamo di Schio Taranto che ha assegnato lo scudetto. Pazienza che lo faremo, tanto Palla Spicchi resta qua ancora per un po', il venerdì 8.00.24 invece, se volete far sentire la vostra voce. Proviamo ad allargare un po' il discorso basket piemontese, Piero. Ieri era a Biella a vedere l'ennesima, due anni di fila, salvezza all'ultimo istante, all'ultimo canestro, all'ultima goccia di energia, anche di Marco Atripaldi, che insomma... per il quale sono seriamente preoccupato, essendo un amico. Sì, è stata chiaramente la partita da paura, e Biella aveva cominciato davvero con le gambe congelate dal terrore, anche perché una squadra con molti giovani, erano la prima esperienza, insomma non è stato facile. Diciamo che ha evitato di retrocedere direttamente Biella, però la partita, un'altra partita, la famosa partita da 500.000 euro, da mezzo milione, e la prossima con tre squadre coinvolte. E poi bisogna anche, detto volgarmente, tirarli fuori questi 500.000 euro. Chi li tira fuori, come li si tira fuori, perché la tassa, che a me non piace tantissimo come regola, se devo essere sincero, non tanto per la questione del diritto sportivo che va salvaguardato, perché la nostra cultura si basa sulle promozioni e le vittorie, quanto perché 500.000 euro incidono tantissimo sui conti per la stagione successiva. Allora, se si paga per poi dover lottare, o peggio essere già retrocessi a metà della stagione successiva, perché 500.000 euro per un bilancio come quello di Biella sono pesantissimi, allora tanto varrebbe. Probabilmente dovranno trovare le risorse in un altro modo, ammesso che serva a pagare questa tassa, ma questo vale anche per le altre società, naturalmente, per Teramo, così come per Montegranaro. Dunque, prima di fermarci un attimo Luigi da Milano, dica, buongiorno. Sì, io non volevo, forse esco da un po' di Torino, ma recupero. No, vale tutto. Luigi, come sempre. No, mi riferisco al fatto che mi auguro con tutto il cuore che Torino rientri a essere una grande città del basket, perché la mia è una telefonata alla luce della sconfitta di Siena a Barcellona, sì, dello stravolgimento un po' anche del campionato con tutti quei rinvii che ci sono stati settimane scorse riguardo all'Eurolega di Siena. Poi naturalmente adesso c'è, secondo me, un campionato leggermente sfalsato. Siena vince tutte le partite, poi arriva l'Eurolega e guarda caso comincia a perdere partite che non avrebbe mai perso. Ora io mi domando una cosa, ma siamo proprio sicuri che Siena sia, la vetrina del basket italiano, con 10 stranieri, 10, no, 9 minuti allora, di due italiani che giocano nella finale quando ormai si è perso? Luigi, dentro questa telefonata ci sono un sacco di bei temi. Io ho detto mille volte che Siena non rappresenta il basket italiano, ma rappresenta se stessa e la sua bravura, ma esattamente come l'Inter non rappresenta il calcio italiano, ma rappresenta se stessa. È una grande squadra del 2011, quindi non starei a fare queste distinzioni italiani e stranieri. Stiamo parlando di massimo livello professionistico, dunque questi sono temi che lascerei sullo sfondo. Gli altri invece vorrei trattarli subito dopo la borsa che ci attende. 800240024, siamo qui. Palla Spicchi. Ecco che torniamo allora qui in diretta dalla Salone Internazionale del Libro di Torino. Qui abbiamo portato oggi Palla Spicchi, qui abbiamo portato, ripeto, oggi il basket torinese con Piero Guerini, di Tutto Sport e firma storica, e con il futuro Giulio Trovato e Paolo Terzolo, rispettivamente direttore generale e presidente da oggi del club di Torino, il PMS Basketball. Intanto c'è anche il mercato di primavera, notizie che mi scrivono sul monitor, con la Virtus che ha preso Austin Nichols, guardia del Tofas Bursa, e quindi mercato di primavera cui attingerà presumibilmente anche Milano. Luigi da Treviso è un ascoltatore in linea, 800 24 00 24, telefonate che valgono, così come gli interventi qui in diretta, messaggi 349-238-6666. Insomma, ho detto tutto e adesso voglio tornare alla domanda di qui sopra, al di là di chi scrive Siena la rovina del basket, Bellestare ennesimo fallimento in Eurolega e gli invidiosi sono sempre in agguato, caro Piero Guerini. Insomma, dicevo, Siena rappresenta se stessa, magari a qualcuno, ma ci sta anche questo, perché lo sport è sport e non è necessariamente essere sportivi. Ci sta che qualcuno abbia anche tifato contro Siena e va bene. A me personalmente non ho tifato contro Siena, ci mancherebbe altro, non mi è piaciuto il dopo partita con questo appello più o meno velato, forse più che meno, all'arbitraggio di quella semifinale con il Panathinaikos. La sconfitta di Siena, forse mai così inattesa, Perché forse mai come questa volta si aspettavano di arrivare perlomeno in finale, sentivano l'obiettivo vicino e sentivano di avere le possibilità anche tecniche di arrivare ad accarezzare quella coppa. Poi di mezzo però ci si mette il Panathinaikos, ci si mette Obradovic, secondo me non è un caso, non può essere un caso che un allenatore porti 8 volte la sua squadra al trionfo continentale. Per livello di esecuzione, nelle due partite il Panathinaikos ha chiaramente meritato di vincere questa coppa, perché sempre la palla è andata nei posti giusti, nel momento giusto. Diamantidis è stato chiaramente il miglior giocatore di Eurolega. Siena ha tirato 2 su 18 da un lato dell'area e poi anche il Maccabi ha tirato il 39% da 2. Ci sarà un motivo. Obradovic ha portato la partita esattamente dove voleva, cioè a rendere indispensabile McCaleb, che era diventato un cambio di stralusso e di rottura, no, per Siena. Lì lo ha fatto tornare indispensabile e Siena si è un po' persa in quel bosco creato da Obradovic, al di là dell'arbitraggio che c'è stato. Io voglio chiedere, Siena per chi fa pallacanestro, che cosa rappresenta e che cosa insegna, Giulio? Perché tutti siamo bravi a dire, insomma, la strada è quella di Siena, si costruisce una squadra, si tiene l'ossatura, si migliora di anno in anno, ma è possibile? È facile? Perché la lezione è lì, eh? Certo, e Siena è sicuramente frutto di una programmazione e di un'organizzazione curata nei minimi dettagli. Credo che Minucci sia stato in grado di organizzare una società, e in grado, quest'anno era l'anno sicuramente in cui avevano più ambizioni, ma non dimentichiamo che l'anno in cui hanno comunque scelto di non confermare giocatori che andavano verso contratti o richieste di contratti troppo elevate, quindi hanno ricominciato un ciclo con dei nuovi giocatori. E malgrado questo sono stati nuovamente al vertice, giocando magari, non so, la semifinale col Panathinaikos, con dentro Satò, che lo scorso anno era uno di quei giocatori che si è deciso di non riconfermare. Quindi direi che questo è sicuramente, non può che non essere frutto di organizzazione e di programmazione. Certo. Che cosa significa Siena per società come noi nel basket? Sicuramente significa un esempio di come la programmazione e l'attenzione ai particolari possa portare al raggiungimento di ottimi risultati. Certo. Poi è anche vero, caro Presidente, l'esempio di Minucci è lì da seguire, però come diceva, ricordo quando ero piccolo e andavo al Palalido a vedere le partite, compravo sempre le bibite dal chiosco lì davanti e c'era il bibitaio che mi diceva "Gever la moneda". Non serve la traduzione, credo. Certo, no, non serve, assolutamente non serve. È chiaro che fare dei progetti bisogna essere capaci, ma bisogna anche essere capaci a trovare le risorse economiche per portare avanti questi progetti. Minucci, nel caso specifico, se vogliamo parlare di lui, è stato bravo a fare entrambe le cose. Sì, diciamo così. Sì, no, è chiarissimo. Luigi da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Saluti a voi tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo un vostro piccolo commento sulla situazione di Treviso. Prometto che ieri ho visto la partita in diretta al Palaverde, Cantù Treviso, e ne ho viste ultimamente un 4-5 grazie a mio figlio che si è avvicinato al basket. una ventina d'anni fa ci andavo assiduamente a Treviso al Palaverde, e si tratta del periodo d'oro, c'erano un certo Tony Kukoc, Winnie Dellego, eccetera eccetera. Il palazzetto era strapieno, i numeri, bisognava andare col biglietto numerato e quello era il posto, non certo uno spillo. Ieri, come nelle ultime 4-5 partite che ho assistito, metà palazzetto vuoto, il tifo organizzato del Cantù sembrava più numeroso di quello di Treviso, e dei giovani promettenti, vedi Gentile, Montejuna, che è destinato il prossimo anno all'NBA. Sì. Vedere questo sfumare così mi sembra un po' una sconfitta per tutto il basket italiano. Luigi, forse è proprio questo il motivo di questo scollamento, di questa caduta dell'amore, no? Che ha portato Benetton a rifare i conti, che ha portato Benetton a dire vabbè, sto qui ancora un anno e poi continuo con il rugby. Insomma, la vicenda la conoscete perché non è nemmeno più cronaca. Credo sia questo, no, il motivo, Piero, o uno dei motivi che ha portato Benetton ad una decisione così dura. Per la pallacanestro italiana e non solo per Treviso. In termini sportivi, il pubblico di Treviso probabilmente aveva e ha, siccome non va più, la pancia troppo piena o era stato abituato troppo bene. Forse tutto il basket italiano dovrebbe individuare, lavorando congiuntamente tutte le società, dovrebbero trovare un modo per attirare comunque pubblico, perché lo spettacolo deve prescindere dal risultato. Sì. E in parte anche dai protagonisti. È ovvio che quando giocavano Kukoc, Del Negro, Rusconi, tutti andassero a vederli. Era anche la prima grande Benetton, e tra l'altro poi cambiò il progetto, spesero meno ma investirono sulla società e sulle strutture. Bisogna trovare equilibrio. Certamente la disaffezione ha portato Benetton, la famiglia Benetton, ad allontanarsi. È uno dei motivi, questo è uno dei motivi, certamente. Saluto e ringrazio Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno a voi. Domani vieni qui anche tu, al Salone del Libro di Torino, a presentare il tuo libro, che però con la pallacanestro non ha nulla a che fare, che tratta temi, con tutto il bene che vogliamo alla pallacanestro, un po' diversi e un po' più seri. Questo 10 passi. Sì, anche se qualcosina di sportivo qua e là, come i filmati di Phil Jackson, di tecnica, con qualche fotogramma di cinematografia, qua e là qualche fotogramma di basket c'è. Sì, non te l'ho mai chiesto, ma da dove nasce? Nasce dal senso di colpa nel 92 di non aver capito cosa stava succedendo in Italia con le stragi, nasce dal fatto di aver avuto fortunatamente contatti con persone che la mafia la combattono, e con la voglia di farsi sentire vicino, oltre che con le parole, anche con qualche parola scritta, oltre che detta. Sì, l'hai scritto con Mario Conte questo libro. Che cosa c'è dentro? Ma giusto per dire due parole, poi domani sarai qui alla presentazione e sarà un sacco di pubblico. Cosa c'è dentro? Giusto per dire in due parole anche alla gente di Pallaspicchi. Ma c'è dentro la storia di due padri che secondo me indirettamente parlano ai figli e cercano di spiegare non solo che cos'è la mafia, ma che cosa nella loro idea potrebbe e dovrebbe essere la società. Uno fa il magistrato a Palermo e ama molto lo sport, uno fa il telecronista a Milano e ama molto la società e tutto quello che le ruota intorno, e quindi sono due amici che parlano. Se qualche altro amico vuole inserirsi nella conversazione, vuole leggere magari per criticarle queste pagine, a noi fa piacere. Flavio, ti chiedo di rimanere collegato con noi, adesso traffico e subito dopo torniamo a parlare di basket qui dal Salone Internazionale del Libro di Torino, perché vedi, caro Flavio, giri e poi ti rendi conto, anche con gli ospiti che ho qui, che rappresentano il futuro del basket a Torino, che i fermenti di vita nella pallacanestro italiana ci sono, bisogna andarli a cercare. Però traffico. Palla spicchi. Perché vedi, caro Flavio Tranquillo, oggi qui da Torino, al Salone Internazionale del Libro, mi sono portato il basket torinese, da Piero Guerini, che ben conosci, a Giulio Trovato e Paolo Terzolo, che rappresentano la nuova società di Torino. E qui i programmi sono ambiziosi, il pubblico c'è voglia di pallacanestro, ma sono tutte, prima abbiamo parlato anche di quella ferita che per me sanguina ancora, ma credo anche per te, della Final Four di Eurolega che Torino aveva e che poi ha regalato, in pratica, anche se è una parola sbagliata, a Barcellona. fermenti di vita nella pallacanestro italiana ci sono, ed è bello venire qui a scoprirlo in fondo. Sì, ce ne sono parecchi, ci sia del potenziale neanche da esplorare, semplicemente da attivare è sicuro. Purtroppo temo che sia altrettanto sicuro che non abbiamo ancora trovato la scintilla che lo attiva pienamente. Sì, ma la troveremo, no, Presidente? La stiamo cercando l'accendino. Ma noi l'abbiamo già trovata la scintilla, adesso dobbiamo solo trovare gli strumenti. Lega 2? No, gli strumenti per poter alimentare questa scintilla. Non lo dirò mai che stiamo prendendo dei diritti di Lega 2, perché non è assolutamente vero. Lo faccia dire a me. Va bene. Sono qua apposta, mi pagano apposta per dirlo. Flavio, la notte dell'NBA che ha portato, a proposito di storie, di maglie che ritornano ad altissimo livello, Chicago che dopo Michael Jordan ritrova la finale di conference, che mi sembra forse l'unica cosa davvero interessante e suggestiva in questi playoff stranissimi nell'NBA. Sì, molto strani, forse però proprio perché strani e interessanti. Non lo faccio mai, ma permettimi di consigliare, se qualcuno tra questo pomeriggio e stanotte ha voglia di ascoltare la replica della partita su Sky, non tanto per la partita o non solo per la partita, ma perché il commento l'abbiamo fatto con Danilo Gallinari e credo che sia molto interessante sentire il suo punto di vista su Chicago, su perché Chicago è arrivata fino a qui. Io penso che per l'NBA e in generale per il basket l'arrivo alla finale di conference dei Bulls possa essere molto significativo. Una squadra con una stella che non vuole fare la stella, la fa solo se sì. E quando è necessario, e la fa molto bene, che si basa prima sulla difesa che sull'attacco, che mette in panchina gente da 15 milioni di dollari nel quarto periodo se non difende e gioca con quelli da 2 milioni di dollari, potrebbe essere un messaggio straordinario per la Lega, posto che da qui a fare Chicago il bene e Miami il male, leggendola al contrario, sarebbe un errore o sarebbe limitarsi a una lettura superficiale delle cose. Ma lasciami dire che è l'unica vera squadra in queste quattro che resteranno. Lasciami fare il tifo, caro Piero Guerini, anche tu per Chicago. Sì, io spero anche Oklahoma, a dire la verità. Sarebbe un messaggio fantastico per la Lega, cioè i giovani che sono anche diversi da LeBron James e amici, la generazione di mezzo che ha vinto poco o non ha vinto ancora come LeBron. Sì. Flavio, ti ringrazio, a presto. Grazie, a domani per Torino. Alla prossima e Flavio Tranquillo, domani qui ve lo ricordo, io torno a chiacchierare con il basket torinese, se volete anche voi, 800 24 00 24 è il numero verde. Io stavo anche dando un'occhiata ai messaggi che riguardano proprio il vostro futuro stretto da Tassinari, se resta a Torino oppure no, vediamo dove andrete, in quale categoria giocherete, insomma. Permettetemi di ridirlo, c'è chi domanda, ma perché non parlate anche del nuovo campionato di sviluppo e delle modalità di assegnazione delle wild card? Magari lo facciamo. Io voglio chiedervi però quali sono i vostri rapporti attuali e in prospettiva futura con la restante parte del basket piemontese. Biella che si è salvata ieri, Casale, Monferrato che vuole fortissimamente la Serie A e che Piero Guerini diceva vuole anche giocare la Serie A a casa sua, no? Sì, perché Cerruti è sempre stato molto legato ed è tuttora molto legato al territorio. L'idea, a quanto ho capito, è quella di girare il campo e di creare due curve, due tribune in più per arrivare alla capienza minima e per restare a casa. E io credo che sia comunque la soluzione migliore, perché i trapianti hanno quasi sempre crisi di rigetto. Sì. Finire da un'altra parte sarebbe snaturare la loro storia, ecco. Sicuramente tutti aspettano la finale tra Casale e Venezia. Ecco, arriviamo a Presidente, io l'ho trovato. I vostri rapporti col basket piemontese quali sono e quali vorreste fossero anche in prospettiva? Ma io credo che non si possa crescere da soli in un ambiente come la pallacanestro, quindi noi collaboriamo costantemente con le società sia di Biella che di Casale, dove ci riferiamo, visto che loro sono nel mondo professionistico, e quindi i rapporti sono sicuramente buoni, sono gestiti da ottimi professionisti, e quindi credo che proprio per il bene del basket piemontese si debba provare a crescere tutti insieme. D'accordo, Presidente? Sì. La vede così anche lei? La vedo così. Non sono molto d'accordo con Guerini quando dice che il futuro di Casale deve essere a Casale, perché non ritengo che sia una piazza che può dare più di tante soddisfazioni. Sono anche però d'accordo che dice che i trapianti spesso e volentieri non hanno grossi futuri. Giusto per sottolineare un aspetto, se mai dovessero decidere di venire a Casale e volessero parlare con noi siamo assolutamente disponibili. Quindi c'è questa apertura nei confronti di Casale, ora impegnata però alla ricerca dell'ascensore. Non insomma, credo che loro stiano pensando questo, però sta aspettando l'ascensore Casale. Siete andati a vedere la partenza del Giro d'Italia qui da Torino? No, neanche tu, Piero? Ero a Barcellona per... Eri a Barcellona, beato te. Breve inciso sul Giro d'Italia, oggi c'è il primo arrivo in salita, sentiamo come stanno andando le cose, poi torniamo qui per chiudere il programma. Voci dal Giro. Dunque, voi non siete andati a vedere Piero a Barcellona e gli altri miei ospiti impegnati in faccende cestistiche. Piero Augusto Stagi dal Giro, buongiorno. Ciao Carlo. Prima montagna, primo arrivo in salita, tappa veloce, rapida, 110 km, ma una specie di coltellata nelle gambe, no? Sì, sì, è praticamente una crono in salita, una crono scalata. 110 chilometri, sono appena partiti, 84 chilometri all'arrivo, 5 uomini all'attacco con il campione d'Italia Visconti, con Pinot Montaguti, e quindi il bello deve ancora arrivare, abbiamo appena incominciato. Dunque, ci sentiamo più tardi, prossimo speciale sarà dopo il GR delle 19, ma naturalmente vi racconteremo e torneremo a raccontarvi tutto sul Giro. A più tardi, grazie per Augusto Stagi. Voci dal Giro. Invece torniamo per chiudere Palla Spicchi, insomma è quasi ora di salutarci, Piero, ma mi viene a trovare a Milano una volta o devo tornare io a Torino? Beh, se tu tornassi a Torino magari ci sarebbe un motivo importante, allora, come anche il Salone Internazionale del Libro. Sì, il Salone Internazionale del Libro, e poi torno a vedere i ragazzi che l'anno prossimo sono in Lega 2. No, posso dire un'altra volta. mi odieranno. Prossimo fra due ci sono. Fra due anni ci sono. Beh, bisogna vedere in quale campionato, perché magari c'è una serie A unica, anche sì. Questo. Sì, giusto per il futuro, è molto presto per parlarne, ma il vecchio generale, il vecchio Napoleone Faina rimane a Torino o no? Lo tenete? Stiamo sulla panchina? In questi giorni stiamo valutando la cosa, sicuramente ieri in occasione dell'assemblea dei soci abbiamo cominciato a stilare un budget per la prossima stagione, quindi direi che a breve insomma, daremo notizie di chi guiderà la squadra l'anno prossimo. Beh, allora buon lavoro anche a lei presidente, grazie. Sarà impegnato in trattative nei prossimi giorni, quindi può adesso... cercare risorse per chiudere le trattative benissimo. Io voglio solo ricordarvi, prima avete sentito Flavio Tranquillo con Danilo Gallinari che è andato negli studi di Sky a commentare questa partita di playoff. Danilo Gallinari certamente nei prossimi giorni, con ogni probabilità un sabato, sarà anche ospite di Radio 24 nei nostri studi, anche per parlare con voi. Già ve lo dico, poi fisseremo con calma un appuntamento pubblico, però già dico che Danilo Gallinari verrà. Per quanto riguarda invece la nostra presenza qui, vi ricordo, qui in diretta da questo palco, da Torino, Focus Economia, La Zanzara, questa sera alle 21, speciale con Gianluca Nicoletti. Ringrazio Piero Guerini di Tutto Sport, ringrazio Giulio Trovato, direttore generale, e Paolo Terzolo, presidente della PMS Basketball di Torino. Ci sentiamo domani dalle 5, buona serata a tutti.